A uno di che cosa? Di amplificazione? Così a uno, 1, 2, 3, 4, 5. Siamo un uomo. Non è un bel microfono questo. Sì, va bene, per il gas. Perché questo è brutto, No, va bene anche il tuo. Il segnale come è già buono. Prova. Vado a vedere. Io va bene allora. Attaccato sì. La potenza massima. La potenza massima di questa radio, che sono intorno ai una trentina di watt, 25-30 modulati. E come mai c'è questi watt qua? Perché l'ho fatta modificare. Si può modificare, si può portare anche a 50 watt. L'ho fatta modificare. Lo sai da chi? Una modifichetta sullo stadio finale, capite? È da 25 watt e 30 modulati, anche quella di massi è così. Qua così abbasso la potenza, così allora il power, l'RF power è al massimo, così invece è girato a senso contrario al minimo. La vedi la differenza? Così l'RF power è al minimo, dove c'è scritto RF power è a zero, dalla parte sinistra. Adesso lo giro tutto a destra, ecco qua, guarda. Ma io non vedo nessuna differenza, sinceramente. Non c'è una differenza. No, e poi si abbassano i fatti. Ma di radio sto dicendo, io stavo ascoltando la radio, scusami, non pensavo che si pensasse il fatto. No, la radio non deve variare, se varia la radio allora abbiamo il nome devo chiamare. I vatti, questa è la potenza alta della radio, RF power a manetta, e questo è girato al senso contrario, non vedi la differenza? No, non si vede niente qua, perlomeno qua non si vede. Minchia, non si vede niente. Allucinante, allora, lo mettiamo davanti a manetta. E a te Marco, si nota la differenza? Claudio, macchina è difficile di ce la so più di dire l'audio, Una manetta. Ah, era te natalissimo, vedi la differenza dalla potenza minima alla potenza massima. Claudio, non stavo guardando, sto facendo cosa qua. Va bene. E comunque da alla minima potenza da 8 watt, alla massima potenza da 25 watt e 30 modulati. Ma è doppio finale? No, una modifica che ha fatto un amico, sono più finale, non ho toccato niente, c'è solo una modifica che si fa per aumentare la potenza dello stadio finale, che basta. Ma non è che adesso ti farà lavorare troppo e ti fanno? Ne metto con le balle. No, ma dico, magari si portano di più. No, te lo sai chi l'ha fatto, con strumenti alla mano. Se tu leggi il manuale service di questa radio, lo dice, la massima potenza è 25 watt. Quanto eroga in banda laterale, eroga in AM adesso. Però sono regolabili infatti, capite? Se si può portare anche a 50 watt, la massima potenza c'è scritto. Va bene. Dove sei Marco? Ottava. All'interno, ho capito, l'antenna è bassa, ma lo senti basso lì nelle zone 2, però io sono aperto, quindi non ho problemi, il segnale è calato dentro città, ma fuori città è rimasto uguale, non cambia niente. E comunque la morale è sempre quella lì, antenne da un metro o meno, resa poca, le antenne vogliono lunghe, almeno un metro e mezzo, se no si arriva davvero da qua alla Landricca e poi. Senti, non quella che c'è nel fuoristrada, non va bene quella, non è lunga abbastanza. Avanza, se ne scenda. Sembra un paio di luce, 2,75 m, vedi tu. Riprendi già, dai che io fra un po' vi lascio per vado a cenare. Ma qual è quell'antenna che c'aveva? Ehi, e gli stili c'ho io, capito, mi ha dato lui. Gli stili, metto gli stili intercambiabili, banda per banda, 10, 15, 20, 40, 80, quello che serve. Ma quella dei 40 sembra un palo di lucche, non la puoi mettere camminando, devi usarla da fermo. Sì, c'è la tua quella di pittura, però, di bilancia da quel palo. Non la puoi la sua tragedia, perché il palo della luce era più grande da rifubare. Sì, più o meno sono quelli, sono gli stili della Eto, gli stili della MA5, capito? Sono degli stili HF che è intercambiabili, c'è anche Marco Scorpio. Un po' tutti i radiomatori che usano la radio macchina c'hanno quegli stili, ma sono una bomba, escono veramente bene. Capo, perché c'è fuori strada? Macchina nuova qua? Sì, c'è un bel. E che macchina è? Ti dico sulla cilindrata è un 3000. C'ho la salvatoio del... c'ho l'autobotte del gasolio qua nel piazza di casa, capito, di fornisco lì. È un 3000, un Terracan 3000, la Hyundai. Ah, capito, hai già capito qua. No, va davanti. Già va bene. Allora, Marco. Porca paletta. Si è fatto tardi, peccato, se non avrei fatto un giro più... Devo andare da Brinkman, pazienza. Infatti sono già le 8, io vi lascio che è arrivato anche mio genere, hanno portato un po' di ciaciccia, adesso lo assaggiamo. Ci sentiamo ragazzi, piacere mi ha fatto, dai, avervi ascoltato. Un abbraccio a tutti, anche chi è in ascolto. Questa radio sta andando bene, mi avete confermato, allora ogni tanto la accendiamo per farla, per usarla, dai. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Natalino, ciao a tutti, vai già. Ciao Claudio, buona carica, dai. E anche io adesso fra poco chiudo, perché devo portare in città. Ci sentiamo, non è stata tanto vicino. Avanti Marco. Gaspa, ciao Claudio, ben sentito. Ci sentiamo le prossime, buona cena con tutti. Ehi, Gianni, buona macabra. Ma ha fatto uscire un po' così. Devi metterti la tubo 2001. Ma te l'ho detto Marco che ha fatto un capo della mia tubo. Ha fatto tornando dall'albero mi si è staccata la base magnetica, ho detto minchia, ma tu stavi correndo di brutto, quella è garantita a 130 orami. Ehi, la presa l'ho fatto forse 150, 140, 150, ma praticamente lo sai cos'è, che io ho sempre visto di pulire la macchina con l'acqua prima di attaccare la calamita per non graffiarla. Pulisco sia sotto la calamita che la macchina, l'ho lasciata bagnata, probabilmente non ha fatto appunto per questo. Lì se c'è tracce di umidità residue pattina, l'ha fatto anche a me, però ha pattinato, cioè si è mossa senza cadere, però la tua è un'antenna imponente, quindi devi stare attento alla velocità già. Ma infatti quando faccio viaggi lunghi non la posso, no, non mi conviene, o devo andare piano, so che non posso ancora, devo andare piano oppure non la metto. Tata. Oh, ero giù a prendermi le sigarette. Ma quelle per quella sigaretta elettronica, amico. Non sono sigarette vere. Ma lo sai che dice che fanno male lo stesso? Distributore dopo ottava. Distributore Agip dopo ottava. Praticamente a un passo dalla rotatoria per Platamona. Io ti sentivo bene e tu non mi sentivi, incredibile, guarda. Comunque te la sto portando, Ehi, ma lo sai cos'è, Marco? È che l'antenna mia sporge un metro, se tu la vedi ti metti a ridere. Ma è pur sempre una 5 ottavi messa su un palazzo, vabbè un palazzo basso, ma... Sono tappato, la devo mettere, con un c'ho un palo da 4 metri, devo aggiungere quel palo lì per metterla più in alto, quella nuova, se no non ne togli i piedi. E quando si fa questa nuova? Cosa? Quando si fa questa nuova della te? Prima mi devo piazzare queste staffe qua, poi staccarne quel palo, perché poi ce la salgo da solo, una volta che il palo è in terra ed è attaccato a queste staffe qui, lo salgo telescopicamente da solo e non devo più chiedere niente a nessuno. Adesso il brutto è accenderne l'antenna, capito? Se ti serve una mano, va bene, non c'è problema. adesso quando piazziamo le staffe, prima piazzo le staffe, c'ho tutto qua pronto, tutto pronto per piazzarlo. Ma le staffe per piazzarle dobbiamo piazzare? Sopra la scala, vogliono in alto le staffe, no? E vogliono 1,20 m una dall'altra, così ne scende prima il palazzo delle staffe. Scusate, io devo stare, devo agire con circospezione, che non vorrei che mi stracciassero la patente appena rinnovata. Oh già, io avevo quella in carta, la patente antica, ma adesso questa patente nuova fa cagare. Una patacca, una mancanza di credito, fa ridere. La foto piccola, in bianco nero, bruttissima. Ehi, io ce l'ho già adattato quella lì, ce l'ho già, l'avevo rinnovata qui. E non c'è manco la residenza, quindi non vale neanche come documento quella lì. È uno schifo. Fatta la legge sopra qualità. Prima si usava anche come documento, se c'è adesso non c'è capacità, si la pigli luce. E non serve come documento, perché non c'è manco la residenza, non c'è nulla. Proprio. Adesso dice che vogliono mettere la scatola nera nelle macchine. E adesso dice che la devono mettere obbligatoria, la devono mettere. Per le macchine nuove che immatricolano escono già così, con la scatola nera già installata. Ma chi non ce l'ha sa deve far installare, dici? E non lo so alle macchine vecchie, però le macchine nuove devono averla già installata. Ma io Natali mettiti la parrucca. Sì, aspetta, sto scendendo. Ehi, che la macchina non la posso lasciare in questo zia, se no ci portano via tutto, tranne che la macchina. Sto scendendo, va. Ehi, aspetta che sono ancora, non sono sotto, dai, un attimino. Ehi, mi faccio trovare giù io, dai, in quello spiazzo, fatti, quello spiazzo prima del tabacchino, lì mettiti. Vabbè, comunque già, per città va bene ancora questa antenna, no? Sì, per città sì. Prova a vedere cosa sta arrivando, dove sia adesso? Cavalcavia, quello che si connette a Corso Trinità. Non proprio nella punta più alta. Oh, questa apparecchia solo 3 watt, 3 watt, miseri. 3,2 modulati. 9,25. Figurati, con soli 3 watt, 3,2 modulati, E io c'ho l'apparecchio 1 watt, esce con 2 watt, ma sono stati abbassati, deve essere che prima lo usavano con lineare, l'hanno abbassato. È che non c'ho il servizio per vederlo, se l'ha abbassato almeno 4. Ecco, mio un altro amico, guidando e telefonando, amico. Milano, ma non usavo quel telefono così. Se passi, ti prendi nel muretto che c'è vicino a casa e vedi passato con il telefono in mano. Forse gli hanno detto cosa? Break. Ciao Gianfranco. Come sta andando? Mi senti bene? Già. Ma dici di radio? Sì, solo di radio, il segnale non mi interessa. Sì, la radio sta facendo bene, è bella presente. Ah, ok, perfetto. Ascoltando prima, mi avete messo il dubbio, ho fatto una verifica sulla questione della patente, è valida a tutti gli effetti di legge come documento, non c'entra niente la residenza e quelle cose lì, già dal 2014 questa storia, quindi è valida come quella di prima cartaccia. Ah. Sì, una volta questa mia collega gli ho detto, ma per vedere quando eri giovane, quando eri più giovane, e è uscito, ha preso la patente della gravata, ma scusa, questa patente si è accorta scaldata 5 anni fa. Come 5 anni fa? E sei già dopo la patente scaldata, ma da un bevaro, non ho mai parlato, mi auguro. Adesso costa quasi 90 euro, no, quindi a voglia che le conviene, perché te la cambiano, prima si metteva il bollino, no? Quella in carta, adesso si sostituisce. perché tanto loro in ogni caso, anche se non c'è assicurazione, se non c'è libretto eccetera, istantaneamente sanno chi sei, dove sei, che fai, che scarpe porti, tutto quanto, capito? Quindi non esiste più quel problema che esisteva una volta. Lo so, ma basta anche un finestrino, oramai un pezzo di finestrino, c'è una matricola, vabbè, ci ho saltato nel caso, ci sentiamo, sono ascolto, buona serata a tutti, ciao Natalino, ciao Marco, ti sento, ho fatto sentire bene, adesso non lo so, ciao Gianni, sono ascolto. Va bene Gianfra, comunque dici dai, avanti Marco, Marco dove sei giù con la salita, vabbè io vi saluto, se mi state ascoltando sto facendo un po' di fila, ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao Gianni. Ciao Carlo, ciao, ci sentiamo, dai, ho più cane adesso. Andare. Viene fatto quel QTC all'altro 50? Sì, già. Ha capito chi è? Sì, ce l'ha su Facebook l'amico anche, tuo figlio. Figura. Andare. È piccolo il mondo. Davvero. Ciao, buona cena. Buona serata, ciao, buona cena anche a te, dai. Ciao, ciao, ciao. Oh, avete chiuso tutti? Marco, Gianni ha chiuso. Tanto quello che l'ha resa, bene o male siamo lì, sono da Claudio, ha variato un po' perché è ancora più lontano lui, è più alto ma è più lontano. Sì, esatto, dove sei adesso? Ho imboccato adesso Viale Umberto, poi Viale Trieste, eccetera. Qua mi arrivi Santiago 9, Radio 5. Eia, l'unica cosa, notavo che questo apparato più di 3 watt non va, lo sai, 3,2 modulati. È il più secco degli omologanti che ho trovato, di più non dai. Ecco, sono arrivato. Di miseri sono 3 watt. Ehi, ogni abretto, io ero in camicia, ed ero nudo sotto, non c'avevo né maglia né nulla. E cosa ci puoi fare? Se tu devi metterti il giubbotto come ho fatto io, esci in camicia, è un macello. No, ma dico, al chiuso sto bene, è che sono entrato dalla macchina. E sai, cosa mi mette il giubbotto per 30 secondi che siamo rimasti? Comunque è nuova, se tu la guardi, quella che avevo già spruzzato il CRC, con 3 dot, dove pinto, quindi tu poi ti appena appena uscito, però allora io avevo già spruzzato il CRC, sulla base magnetica mi dà, aveva i valori di 1,35 su terra per tutta, 190 cano 19,20, dai. Io ne tolgo quella piccola che c'ho e metto quell'altra. E vedrà che almeno posso andare in macchina anche io. Vediamo, è anche più alta la PLC, no? La PLC, ma è un bar ragione, tocca mettere la base magnetica, invece con quella lì sono a posto. Ce l'ho fissa in macchina e via. Cappa, adesso rilancio, devo stare già in modulo. A me non piace quando il modulo è cioè, modulando, cioè, come non usare il microfono. Quindi dai, riprendi Carlo, sono arrivato a Rio Trento. Io ovviamente faccia di culo come sono, mi sto in parcheggio con la moto. Adesso una volta rimetto la macchina. Se lo sapevo ti chiedevo il favore, Marco, che dovevo andare in via 25 aprile a fare una commissione. Vabbè, là, per non togliere la macchina, ma ci vado domani, me la tolgo la macchina, poi il parcheggio dove lo trovo, è un macello qua, non c'è mai parcheggio. Carlo, io vi saluto perché sto seguendo la pasta e quindi sono un po' qua e un po' là. E vabbè, Carlo, dai, buon tutto. Ciao, buonanotte a tutti, ci sentiamo. Ciao, ciao Carlo. Avanti Marco. Ehi, sono arrivato, sto parcheggiando, quale ti, ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Ah, che bello, guarda che bello. Quando c'avevo il motorino anch'io facevo così. Ehi, sai cos'è Natale, io la tengo in garage, la moto, non è che... che lo posso fare ogni volta, però se ce l'ho già fuori, perché no? Che te devo, tanto dicono mezzo, devo sempre uscire, quindi che ci sia la moto, la macchina è una stessa. Va bene, stacco tutto, ciao Natali, sono contento di aver sbrigato questa commissione, di avertela portata, ciao, quelle ti ci sentiamo, saluta in casa, ciao. Ciao altrettanto, ciao Marco. Già nella questa parte. E io ciao, sono tu di presentito. Ho risolto, ho rifatto il cablaggio delle connessioni al microfono e il rosio è sparito. Senti qualche rosio per caso? No, tutto a posto, grazie a Dio. Non c'è nessun problema. Bene, Mela, dai. C'erano un paio di soldi. C'erano un paio di saldature da controllare, poi si sono andato bene una questione, un po' messo il portabatterie, l'ho fissato con la corda a caldo perché era un po' ballerino, forse quello che causava il ronzio, dai, e quindi adesso funziona bene, dai, sono contento. Meglio così, sono anche contento, la verità, almeno ti sento come si deve. E non è il suo problema. Stavo per buttarcelo, poi dentro un cassettino ho trovato un paio di capsule di quelle a condensatore che avevo comprato non so quando. Poi ho trovato un portabatterie di ministero, ho detto ma invece che proviamo a fare un accrucchio. Infatti poi ha funzionato, meglio così, sono contento, ovvero sei tranquillo e non hai nessun problema. Va bene il suono della radio, Ale. A lui va bene la radio, è perfetta. Veglia. Bene, bene, dai. Stavo per buttarci tutto. Poi alla fine mi è venuta un rimasuglio dei tempi che furono, dai, ho detto, cazzo, non è possibile, ci ho buttato il microfono senza fare niente per ripristinarlo, dai. Bene, Meda. Bene, bella, dopodiché non sei più uscito. C'è il PTT, forse un po' consumato, dai. Ah, beh, sentato qui. Perché ho sentito bella bella, poi dopodiché, sparito dalla circolazione. Sicuramente, si vede che il microfono è vecchio. probabilmente il PTT c'ha le piste consumate, dai, quindi devo stare attento a schiacciare bene il tastone grande, dai. E infatti il setup è quello. Troia. Si è affacciato qualcuno per caso? Vabbè, è tardi, quindi tardi, dai. Non è tardissimo. Sorridesi. No, la verità non ho sentito nessuno stasera. È strano, perché ieri abbiamo chiuso questa luce a mezzanotte, quindi figurati tu. Oggi è strano, non c'è nessuno. Succede. Succede, adesso sto schiacciando forte e forte, allora rifaccio. Adesso va bene, comunque sei perfetto, non c'è nessun problema. Stavo leggendo che i microfoni a condensatore possono essere alimentati tra un range di da 1,5 massimo 9 volts. Ti ricordi qualcosa per caso? No, la verità no, ma comunque sia, non lo so. Le avevo prese a Fusaro tempo fa, ne avevo preso due o tre di quelle capsuline a condensatore quei fili rosso e nero. No, sono entrato su internet giusto per dare una sbirciata e praticamente possono reggere una tensione massima sino ai 9 volts, però dentro il microfono la batteria della 9 volts non ci sta. Io ho capito, aspetta, ti sentiamo. Facciamo una cosa, aspetta un secondo, ti richiamo subito. Sono entrato. Bene Meda. Ti stavo dicendo, è che lo spazio dentro il microfono palmare non è tanto, se no ci avrei. Magari ci avrei messo una batteria a 9 volts, sicuramente magari spingeva un po' di più, però vabbè, non me ne ha fotti nulla, dai, già va bene così. A voi già va bene così, è tranquillo. Buonasera anche a lei. Buonasera. Stavo guardando un bel film, quindi adesso vediamo un po' che c'è a radio e trovo sempre i suoi tignotti. In ottamoli, dai. Allora, è così. Ieri poi ti stavo chiamando, non mi ha risposto, volevi ancora il telefono. Dimmi tutto. E c'è una cosa nata ieri sera, la verità. Dimmi tutto. No, niente, siccome dovevo andare, dovevo mandare la radio, ho detto, saluto Antonello, Antonello, ho detto, vabbè, già si accorgerà che me sono andato. No, quello sì, vabbè, comunque c'è un fischietto, la verità, adesso. Non so perché bene, c'è un fischietto. Non lo so, aspettate, via. E ora, guarda un pochino. Siamo in esco, Pino, buonasera. Oh, ancora un innesco, non riesco a capire da cosa possa dipendere. Ventole, vabbè, accese, aspetta che abbassa un pochino. Cosa posso fare? Ancora? C'hai la tua parlante esterno troppo alto, ho le cuffie, un'altra radio accesa, vabbè. sì, ne ho tre, quattro accese. Aspetta, proviamo a spegnere. Allora, vediamo. Spegniamo una. E ancora? Adesso va bene, sei perfetto. Non c'è più. No, voglio vedere, fare una prova, aspetta, lo riaccendo così almeno. Vediamo se è quello. Ecco qua, l'ho riacceso, vediamo se è questo. Sì, è lui. È lui, è molto fastidioso. Sì, se siete un bel. Mannaggia, aspetta. Ecco, l'ho spento, Non so cosa possa dipendere. Adesso va bene comunque, sei tranquillo, non ti preoccupare. La modulazione sempre la stessa, quello che ho fatto anche il Michelin, l'ho abbassato un pochino. Ah, se va bene, perfetto, lascialo così. Sì, c'è sempre quel leggero principio di innesco, cioè è proprio lì che è in agguato, è proprio l'MLM, quindi io lo sento, poi questo è quello che sento io dalla mia radio, c'è un leggero innesco che sta sempre in sottofondo. No, vabbè, adesso aspetta, vediamo un attimo se cambia altra cosa. Guarda adesso se c'è ancora. Sì, c'è un leggero fischio, c'è un leggero innesco sotto sotto. Boh, sembra un rientro, dai, boh, non so da cosa dipenda, lo saprai tu, dai. Vabbè, ma se non disturba... c'è un'altra cosa attaccata, non vorrei fare queste prove, se non disturba lascio così. Va bene, adesso sei ascoltabile. Vediamo se ha cambiato qualche altra cosa. C'è la ventola per accesa, Vai, vai. E io tutto a posto, che problema. No, vabbè, niente di strano che sia il PC, che sia l'amplificatore anche. No, perché non ci credo proprio, ma comunque sia, sono andato in fesseria a un certo punto, quindi... Tino, sembra un rientro di bassa frequenza, non di alta frequenza, capito? Boh, c'è questo sotto rimane questo leggero sibilo, questo fischio, che ogni tanto parte e poi ogni tanto si abbassa, dai. Non vorrei stupidaggine, può essere anche la lavatrice. Ah boh, vabbè, a giorno oggi può essere tutto, dai. Perché qua lì essendo tacci, magari fa da fastidio con il mio telefono che ce l'ho a fianco e adesso sta centrifugando, dove ti dica? Vado a pensare un po' tutto, ecco. Guarda, la prima cosa che viene in mente sembra che tu abbia un altro baracchino acceso vicino, quindi si sente questa sorta di innesco, capito? Questo fischio proprio di rientro in segnale. Già può essere, aspetta il cambio radio. Con questo, come va? Questo è diverso, lo sai, cazzo. Una cosa diversa è questa. Come anche la guba. Con questo è differente la cosa. Antonella, la discoteca in sotto casa hai? Mi sei. Io sono di conosci. C'è presente sopra il piedivolo? Sì, ce l'hai. Di memoria. Il tuo? No, il mio. Aspetta. Mi viene a ridere. Io sapevo che era il mio. Aspetta 2 secondi. Cacchio stai dicendo? Riprendi già là. Aspetta, senti qua. Senti, hai capito chi è? Sì. No. Cazzo, il cantante del coso. Dio odia, dimmelo tu cazzo, come faceva? Lei non sapeva far l'amore. Vabbè. Sì, io ho capito chi è, però quella canzone la conoscevo. E con l'ascita, tattica. Ehi, cantateli con l'ascita. Con l'ascita. Andrà bene, andrà bene. Ora, aspettate, vino, scusate, voglio fare una cosa. La radio ultima, Santiago 9 qua nelle mie coordinate con lo strumentino dell'Uranus, dai 5.5-6 da parte mia, quindi parli sopra di lui come se stesse lui non lo stesse, figurati tu. Cioè, praticamente dovresti arrivare a 9.10 o 20, ho capito. Sì, tieni presente che io ho il Saturneco che c'è problemi di ricezione, quindi a un certo punto, quindi il segnale 6 e lui Santiago 3 e 4, la differenza c'è. Ma come mai già la pelle così basso? Cazzo basso, Tino, Santiago 9. Qua lo strumentino mi indica Santiago 9, mentre Antonello è 3, 5 e 6. Vabbè, sapendo le tue coordinate, allora è più lo smitter. Probabilmente sì, infatti è lo smitter che mi sta dando questo rapporto, non sono io personalmente. Io leggo e poi riferisco. No, vabbè, per carità, voglio dire. Sembrava un po' così. Anche perché adesso sta caricando. Eia, vabbè. Referto per quello che leggo, riferisco, non c'è nessun altro filtro, dai. va bene, ok, ci sto. Adesso sei salito, E quanto? Ora, sempre, non ho fatto niente, io sono stato la portante, anzi se ora mollo, la rischiaccio di usare, guarda, aspetta, Com'è? Ha cambiato proprio così, Adesso qua sei 9.20. E adesso ha cambiato ancora un po' quello? Sì, il segnale è aumentato. 9.20, però la radio risulta appena un po' compressa, dai. Sì, aspetta. Così dovrebbe andare bene. Sì, io qua adesso ti ascolto meglio. Poc'anzi si sentiva che era un po' strozzata la radio, dai. Adesso sì, adesso il segnale qua è cambiato, dai. Più o meno sentono 9.15, 9.20. Conta che se lo smette di chiù la radio è azzicato, dai. No, va bene. Se lo sai che i valvolari ogni tanto devi dare la tirata, devi dare una registrata, perché sennò te ne dovrai troppo inserita la portante e scalda troppo, quindi devi dare ogni tanto una registrata. Va bene. Avanti, Ari. Io sono qua, non c'è problema. Io. Siamo a posto. Mi sono guardato un bel film di mezzo guerra, insomma, così, tutto per quello che dicono le persone alte, insomma, e noi poveracci che dobbiamo eseguire. Ma diciamo che nel film c'era un po' di realtà, ecco. Ehi, a quanto sembra il Papa non ha fatto non è riuscito a fare nulla, quindi non siamo fregati in pratica. Quindi a un certo punto ci dobbiamo preparare a fare scorte con quella roba lì, scatole di fagioli, piselli, quello che è, tutto scatole. Quindi a quanto sembra non c'è riuscito a fare nulla. A meno che non ammazzi, no, quello, il discorso è quello lì. No, non ho seguito ancora, io sinceramente su questo fatto qua non è che io vado, prendo quello che mi serve, non sono quello che si accattava un po' di tutto, faccio la solita spesa settimanale e basta, niente di che. Non ho visto grandi cambiamenti nei centri commerciali, però io vado solo il sabato la provvista alla settimana e una volta solo non ho visto che mancata l'acqua, però sono andato la domenica mattina e ce n'era altrettanto, quindi non mi sono allarmato più di tanto. Ho visto gente comprare chili e chili di pasta, devo dire che se non ce la mangia avrà la casa in barca la mattina. Tutti i polli sono spariti, cazzo, gambe di pollo, alette, tutto è sparito oggi. Non c'era completo dello spini vicino a casa, niente. Ho trovato un pollo per sbaglio, 4 euro, l'ho preso e me lo sono portato a casa, la verità, guarda. La gente sta uscendo di testa, no. Non è possibile qua. Cosa quando ho capito la gente, cazzo, se in caso di guerra cosa non c'è, cosa cazzo si fa il pollo? Cazzo lo scaldi nel come si chiama, nel condominio, cazzo lo scaldi. Ci vuole roba in scatola e basta, ceci, piselli, quello che è, cioccolato, piselli di malibia, che sia tutta la roba. Che non sia né pollo, né niente, né carne, cioè, tantomeno, a meno che non sia secca, come se facevano una volta, cazzo, così in America. Invece stava facendo tutto quanto contrario, la pasta, cosa che puoi fare? Dove la cucini? Se ti bombardano, cazzo, non ti posso dire, niente, come cazzo fai a cucinare la pasta? È il gas, al limite. Non lo so, la gente non ragiona, la verità non ragiona perché non è possibile. Senza gas e senza elettricità non fai un tubo, il discorso è quello. A meno che non ti metti a pedalare con la bicicletta, ti prendi il motorino di quelli vecchi, cazzo che gli metti un po' di benzina, lo accendi con quello lì e me lo fai qualche cosa, altro non puoi fare. A un certo punto fai una specie di inverter e va a far culo, da 12 volte faccia 2,20 e cucini la pasta e cosa fai di altro? Niente. Non so. Ma io mi sono attrezzato 4 pannelli solari, quindi 4 batterie da 150 per una, la corrente, l'inverter da 2000 watt a 4000, ne ho altri 2 da vendere, quindi, ma penso di tenermeli però, Guardi, come avete detto, te lo sto dicendo, ho già andato male con il Papa, quindi a un certo punto chiedete che è meglio, ti conviene. Bisogna stare distanti dalle città, quindi la gente va nelle campagne, io andrò in campagna in via del produttore, se mi piacciono i pannelli, eccetera, eccetera, poi quelli che andrò a cagare fuori, quello che me ne frega a me. Con la mascherina andrò, con quelle grosse, cazzo, del come si chiama. Che un po' il tutto finisca per quei poveracci, poveri bambini. Allora, sono, diciamo che le guerre se le fanno le grandi, ma chi ci piange sono sempre i piccoli, purtroppo è così. Lo sai che i bambini che sono là sono tutti quanti, se li vendono, il discorso è quello. solo l'Ucraina facevano così. Le mamme, hai capito, vendevano i bambini per gli italiani, per i russi, per i corri, per i russi e per gli altri. Il discorso è quello. Infatti siamo tutti portati via a un certo punto. Quindi vedi tu, sai quante adozioni ci saranno a gratis? Più di una. Io sono anche del parere di aiutare, di, però sai, ci sarà un po' di burocrazia un po' dietro da fare, ma io sinceramente qualche bimbo l'avrei anche aiutato. È giusto qua stare qua con me, deve mangiare, cresce, lo ballevare, poi quando è grande, se vuole rimanere ranga, se non capisca, non lo so. Però è un aiuto volontario, insomma, da non sottovalutare. Vai già. Vabbè. Se diamo retta alla macchinetta della televisione non usciamo più. Qua c'è gente grossa che sta giocando a scacchi. Come sempre ci sono i poveracci che poi ne pagano le conseguenze. Pacari dai. Sembra una partita di calcio, sono i tifosi da una parte e i tifosi dall'altra. Guarda, personalmente sono veramente, me ne calano le braccia per non dire altro. No, vabbè, quello anche a me, io non sono uno che crede a tutto ciò che vede in televisione, anche perché la televisione io la lascio perdere molto, ma molto molto, non poco, è molto molto molto. Quindi, però sai, anche per il fatto del Covid, oggi non si sente più che altro che guerra, guerra, guerra, il Covid non esiste più, fra un po', però c'è Grande Fratello, c'è l'Isola dei Famosi adesso, quindi non so se vi interessa. com'era quel detto, pane e circense, no? Divide e impera. È una vecchia formula che funziona sempre, pacari dai. No, è che purtroppo siamo succubi di questioni molto più grandi di noi, e questi qua giocano a risico da una parte all'altra. Comunque c'è sempre gente che ci lascia le penne, che non è una cosa bella, e niente, però purtroppo, come si dice, non è per fare il tifo a qualcuno piuttosto che all'altro, però ci sono ragioni, ci sono cose veramente a livello geopolitico, a livello storico, che sono veramente importanti, quindi non si può fare finta di niente. Poi vabbè, la televisione minimizza, i giornali scrivono cazzate, anche io seguo su internet un po' tutte le campane, ci sono i vari giornalisti d'assalto che firmano i pesci, gli altri che sono da un'altra parte, insomma. Per essere obiettivi bisogna essere, bisogna ascoltare tutto e poi discernere e trarne un proprio pensiero personale. Poi se diamo retta alle tifoserie non esciamo più. Sì, ma infatti io sono d'accordo, non è che. E poi ci avrei messo anche un po' di pizzico di menefreghismo, tra virgolette, perché tanto così è, non è che. Guarda, sì, personalmente lo trovo aberrante il fatto che insomma ci passino sempre i poveracci da qualsiasi parte, non me la futti nulla, cioè nel senso, siamo in mano a dei psicopatici, c'è cioè gente che non ha empatia, non c'ha cuore proprio, siamo in mano a veramente dei criminali, perché sono tutti criminali, da qualsiasi parte stiano, cioè è veramente una cosa brutta. Se non se perdiamo anche quel pizzico di sensibilità, abbiamo perso tutti poi alla fine, capito? Beh, lo so, solo che, come si suol dire, la parte come si dice, del manico del coltello c'erano loro. Vabbè, ma lo so, ma guarda, ho lavorato anni in televisione, quindi conosco il sistema della comunicazione. Sai, per curiosità guardo un sacco di cose, quindi quando vedo certe persone parlare mi viene veramente il vuoto a stomaco, proprio gente che non ha nessuna empatia, cioè proprio a sangue freddo, proprio a sangue freddo, proprio è quello che mi spaventa, capito? È proprio gente veramente senza nessuna sensibilità, è quello che, perché poi alla fine, no, da una parte all'altra ci sono sempre esseri umani che poi sono sempre in pericolo, stanno sempre lì sulla lama del rasoio, civili, militari, chi su chi è, cioè è come guardare un videogame, capito? Cioè la percezione è tutta molto, molto, come si dice, molto artefatta, e quindi purtroppo in quest'epoca siamo stati educati così, dai. E niente, vale. Diamo la palla a Alessio, che l'abbiamo messo in parcheggio. In parcheggio? Cioè, sono qui proprio, non è che sono in parcheggio, non ci mancherebbe. Siamo messi bene già. A un certo punto, qua, come si dice, speriamo che ammazzino, cazzo, come Saddam, a quello. Quindi, in Ucraina, 14 siti di armi biologiche, la Russia si prepara alla escalation. Gli USA temono attacchi nucleari. Quindi, siamo fregati, siamo. Adesso non l'ho fatto. Aiutati. Uiuia. Prepariamoci, andiamo tutti a corso, a dare il culo e siamo a posto. No, questo è per te. E io non ci vado naturalmente di là, questo è poco ma sicuro, però nel caso dovesse succedere una cosa del genere, io me ne scendo in garage, mi faccio l'abitazione lì, in cemento al mazzo, e sono a posto. Tu hai tentato di fare un buco, prendi un, come si chiama, fai un bel buco sotto, almeno 15 metri sotto, e sei tranquillo, troppo tutto il cemento armato e sei tranquillo. No, aspetta, che chiediamo un parere a, lascio vedere se c'è Marco Condor, tanto lo so che si ascolta, dai, entra, almeno per salutarci. Adesso mi compro questa con la maschera che c'è Marco Condor. Tu se la compatta, gira, cazzo, serve, cazzo, quella lì. Vado dello spin con quella maschera lì, antigas, dico, a voi mi dia, io devo pagare i 50 euro di cosa devo pagare, non c'è problema. Come detto, non sento niente, non sento niente. Ragazzi, che ci vogliamo fare? E tu ci credi? Tu vedrai più di uno con la maschera antigas dello spin, ci sarà da ridere, cazzo, e ci sarà, te lo dico io. Poi altro che maschera FPP2, si presentano così con quelle, devo fare la spesa, e cosa vuole? Devo pagare questo è il banco, ma te se ne mangi, a fanculo, dice. Sì, io credo che, vabbè, so per certo che le cose primarie non mancano, è che purtroppo la gente cadere sicuro, però non so. Il problema è che anche io sono andato a fare un po' di spesa di carne, effettivamente come stai dicendo tu, non è il pollo, per dire, ne ho trovato uno, era di quelli gialli e rospanti, e non l'ho preso perché a me piace quello lì, quando lo facciamo rosso, ma era l'unico, guarda, questo è l'ultimo, come l'ultimo? E volevo anche un po' di alette, non c'è, finito, e chissà se ce ne portano oppure. Poi ho saputo da un amico che fa il trasportatore, che è arrivato un camion di pesce lì alle Rospine, poi un caso di carne scortato dalla polizia addirittura, cioè, ma ci rendiamo conto? Ma te lo sto dicendo, per quello io ho trovato un pollo per sbaglio stasera qua, le gambe del pollo, cioè un pollo intero ho preso, però le gambe del pollo, le alette di pollo sono tutte sfalite, roba che, cioè, a me mi fa schifo le alette di pollo, per dire, le gambe me le mangio, quello che non c'era, o niente, pesce sì, quello che vuoi, ma tutt'altro niente, adesso dimmi tu, cioè una persona intelligente cosa se ne fa dalle gambe del pollo, se le mette in freezer, adesso spiegagli tu a una persona che ha un'abitazione, che dovesse per sbaglio cazzo mancare la luce per 10-15 giorni, cosa cazzo se ne fa delle gambe del pollo? A un certo punto se le mangia crude, se le mangia, oppure cazzo se le riscalda sotto al culo, il discorso è quello lì, non esiste, cioè se c'è una guerra di subito si chiama l'azione K, allora si prendono le cose in scatola, piselli, quello che è, fagioli, quello che è, dopodiché cioccolato e altre cose varie che danno, e tu già lo sai più di me, sei fatto se sei andato a fare la visita di Maria lo sai cosa c'è, alla banana davano così cioccolati, ma a cioccolato cazzo davano parecchio, se no cazzo tutto in scatola, hai capito? Sono tutti quanti nazioni in scatola a un certo punto, cosa te fai il depo? Non te fa niente, a meno che non pigli il pollo quello dei gatti, dei cani, ti mangi quello, va a far culo come la Simmental. Sì, vabbè, io sì, il pollo mi piace, però ho altre aspirazioni. Vai Gianni. Vabbè, grazie Ale. Non dico essere premurosi, ma ragazzi, qua stiamo parlando di panico, cioè non siamo a quei livelli, grazie a Dio, per adesso, quindi cioè, poi partono le fobie, le psicosi, grazie ai nostri giornalisti, poi lasciamo perdere, dai, che ancora non siamo a quei livelli. Cazzo Guido allora si è caricato un pallet di acqua a Predanieda, ha fatto una guiva, cazzo è tutta roba in carriera, dai, cioè non, cioè capisco che poi la gente ha l'apprensione sentendo determinate notizie, però dai, cazzo, cioè c'è un limite a tutto, dai, non siamo a questi livelli, dai. Sembra così, ma non è così, il discorso è quello. E secondo te, cazzo, stasera, come ha fatto a sparire le gambe del pollo, cioè le cosce in pratica, le cosce, le alette, eccetera, eccetera, nello spin che c'è qui, non c'è nulla, c'è rimasto, c'è solamente un pollo intero e basta, non c'era altro, e l'ho preso io stasera, lo sai che è prima, alle 6:30 di sera, la pasta c'era tutta, perché la pasta c'era tutta, però la roba di carne fatta fuori immediatamente, hai capito? Quindi c'è un problema, ancora non ho capito cosa cazzo se ne fa di uno, cioè della carne, la metti in freezer, dimmi tu, la metti in freezer, se dovesse esserci un attacco aereo e ti attacca la luce, secondo te, quanto ti dura la carne? 24 ore, cosa fai? Ti mangi cazzo 24 ore, 25 euro in canne, ma non è possibile, cazzo. Quindi ce la butta a un certo punto, perché ti si guasta. A meno che non la cucini e la fai secca, come facevano una volta cazzo gli americani, che vendevano in tempo di guerra la canna secca, hai capito? Lei, scusati, ma Ale, ma non siamo a quelli svegli ancora, dai, aiuto, dai. Cazzo, tutta questa paranoia.